Allora, sono le ore 10:24 di martedì 20 febbraio 2024 e oggi è una giornata molto importante per chi ha un minimo a cuore le sorti della libertà d'espressione, perché è il giorno in cui si pronuncia l'Alta Corte di Londra sull'estradizione di Julian Assange. Tutti sappiamo che se verrà confermata l'estradizione, Assange potrebbe sparire in quella sorta di buco nero che storicamente negli anni gli Stati Uniti sono riusciti ad allestire quando è necessario far sparire qualcuno e magari anche le sue idee, la sua eredità. Soprattutto, come dire, sono molto bravi gli americani a dare l'esempio, diciamo, no? A fissare un precedente che fa capire quello che succederebbe a chiunque intendesse seguire le tracce di un personaggio adesso come Assange, ma in passato mi verrebbe da dire come Allende o altri personaggi, diciamo, che in modo del tutto legittimo portavano avanti più o meno gli stessi principi sanciti nella Costituzione americana, ma che, come sapete, sono applicati un po' a targhe alterne. E il caso di Assange è, secondo me, anche abbastanza indicativo del potere che ha, diciamo, questo gruppo dominante di pensiero di come debba essere applicata questa democrazia a targhe alterne. È un potere che ha anche sui nostri media. Infatti, diciamo che i dissidenti, gli attivisti per la libertà d'espressione, i giornalisti veri sono sostenuti moltissimo dai nostri giornali, dai nostri media, a seconda che siano scomodi a una sola parte o a un'altra, no? Facciamo un esempio: Navalny, chiaramente il modo in cui è morto Navalny ci racconta in modo assolutamente chiaro che razza di dittatura in salute sia purtroppo la Federazione Russa sotto Vladimir Putin, e funge da monito evidentemente per chiunque abbia una qualsiasi forma di aderenza a questo modo di intendere lo Stato e qualsiasi forma di simpatia per questo tipo di regime. Insomma, se fosse stato necessario, dopo i casi per esempio di Politkovskaya, di Litvinenko, insomma, ne abbiamo visti tanti in passato, sappiamo che fine fanno i dissidenti di Putin, non molto diverso da quello che succedeva con i dissidenti in era sovietica. E infatti Navalny giustamente viene ricordato moltissimo nelle cronache. Assange, devo dire che negli ultimi anni era completamente sparito dalla circolazione, cioè proprio non se ne parlava. Se lo scopo di rinchiuderlo in quel carcere di Londra, che poi è lo stesso dove vengono rinchiusi i terroristi, senza però in questo caso nessun processo, era quello di farlo dimenticare, esattamente ci sono riusciti. Però, come un fulmine a ciel sereno, devo dire, ieri sera sulla televisione pubblica c'è stata una puntata di presa diretta di Riccardo Iacona, bravissimo giornalista, uno dei pochi rimasti, che per oltre un'ora ha raccontato il caso nei termini corretti, e facendo tra l'altro un effetto ancora più strano, perché appunto sembrava quasi un'esclusiva, una notizia, cioè una cosa che nessuno sa, no? Sono cose invece che tutti sanno, è una questione di cui forse il giornale avrebbe dovuto parlare per anni, però insomma fa piacere vedere che il servizio pubblico torna sulla questione proprio il giorno, la sera prima della pronuncia dell'Alta Corte. Sarà un bel test anche per i nostri media vedere come sarà raccontata in entrambi i casi questa pronunzia. Lo vedremo nelle prossime ore.